all'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Questo è Darwin, un saluto a tutti e a tutte e anche a te Chiara, ciao. Ciao Federico, ciao a tutti. Allora, il tema oggi di Darwin, attenzione, quanto sono importanti le storie per il successo delle tecnologie che si applicano ai beni di consumo ad esempio? Che poi a guardar bene lo sappiamo che nella vita si può avere anche una bella idea, ma come la sai raccontare è tutto. Eh sì, è proprio così, e parliamo di questo tema con Marco Moro, direttore editoriale di Edizioni Ambiente. Benvenuto intanto, Moro. Grazie, un saluto a tutti. Moro, da dove partiamo? Partiamo dalle storie. Noi abbiamo pubblicato recentemente un libro che parla di questo, dell'importanza delle storie. Sono le domande che si fa un regista francese, che è Cyril Dion, diventato abbastanza famoso anche in Italia per questo documentario intitolato Domani, che raccontava storie di cambiamento di stile di vita verso la sostenibilità. Dopo il successo del documentario, Dion si è domandato: ma come mai questi cambiamenti non sono così diffusi? Perché non succede questo? E ha scritto questo libro che si chiama Piccolo manuale di resistenza contemporanea, in cui analizza come le storie ci condizionano e come condizionano il successo di un'ipotesi, di un progetto di cambiamento. Facciamo un esempio. Un buon esempio quale potrebbe essere? Ecco, ho pensato che sicuramente questo peso delle storie si applica anche a un tema come quello dell'innovazione tecnologica, che tendiamo a considerare separato in qualche modo da questo sapere umanistico, che è quello di come si raccontano le storie, le buone storie. E in realtà c'è una stretta connessione anche in questo. L'esempio che mi viene in mente è quello dell'auto elettrica, che da questo punto di vista è lampante. L'auto elettrica ha una storia molto antica, addirittura precedente a quella dell'auto col motore a combustione interna, e però sappiamo che non è decollata. Ha avuto dei momenti di apparente decollo, un momento in cui si disputava il mercato anche con il motore a combustione interna, però non è mai decollata. Limiti della tecnologia, ma anche limiti della storia che poteva portare con sé. Per esempio, all'inizio del Novecento non aveva la possibilità di giocarsi la carta più importante, ovvero il fatto di essere una tecnologia non inquinante, perché non esisteva quella consapevolezza. Quindi nella competizione con la combustione interna era perdente. Che cosa ha oggi invece? Ha un'ottima storia da raccontare. Ha cambiato la propria immagine, ha inserito un protagonista, che in questo caso rappresenta la figura dell'eroe, che in una buona storia è sempre fondamentale. Abbiamo Elon Musk, un personaggio anche mediatico, che ha cambiato davvero l'aspetto e il contenuto e l'efficacia di questa storia tecnologica. Vabbè, Elon Musk dal punto di vista della comunicazione e anche della visione è unico. Ricordo che appunto qualche settimana fa la Tesla ha superato la Toyota come casa automobilistica con maggior valore al mondo, ecco. E tanto per stare in tema di personaggi carismatici che segnano un'epoca, ecco, anche Nonna Papera, la nonna di Qui Quo Qua, guidava una macchina elettrica. E poi chi progettò la prima macchina elettrica? Fu Thomas Edison e non Nikola Tesla, come si penserebbe. Certo, e se guardate l'immagine dell'auto che proponeva Thomas Edison e l'auto di Nonna Papera, trovate che sono effettivamente molto simili. Nonna Papera guida un'auto Edison. Marco Moro, un altro esempio di cui possiamo parlare? Ma secondo me possiamo invece citare gli esempi negativi, dove l'assenza di una buona storia da raccontare impedisce o rallenta la diffusione di una tecnologia che invece è palesemente vantaggiosa in termini ambientali e sociali. E a me viene in mente per esempio la tecnologia per la produzione di energia dal vento, l'eolico. Continua ad essere ostacolata anche dall'incapacità di vincere in termini di storia. In realtà diciamo che c'è una buona potenzialità dal punto di vista tecnologico dell'efficienza energetica, ma non c'è la stessa efficacia nel raccontarla e nel promuoverla. Esattamente, non solo, esiste una narrazione contraria, delle argomentazioni contrarie all'eolico, che alla fine finiscono per avere lo stesso peso di quelle favorevoli. Allora l'idea che possa deturpare il paesaggio o danneggiare l'avifauna pesa tanto quanto i vantaggi evidenti in termini di sostenibilità. E in questa controversia effettivamente questa cosa riesce ad ostacolare la diffusione di una tecnologia che invece ha dei vantaggi evidenti. Si può considerare un esempio positivo, un po' strano purtroppo e che forse non sarebbe stato male evitare,